e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti, avete sentito la novità, Deborah? La novità legata al nuovo brand di Radio 24, nuovo sito, nuovo logo, un sacco di novità per libera la voglia di fare, bellissimo, mi piace molto. Esatto, si addice perfettamente anche alla vocazione di Cuore e Denari. Noi abbiamo sempre un sacco di voglia di fare, tant'è vero che ci spediscono sempre in trasferta. Infatti siamo qui in una location speciale alla Cuore e Denari, direi, perché oggi siamo in diretta da Parma per Cibus Tech. Chi volesse passare per un saluto, per darci un abbraccio, un bacio, per dirci come siete brave, vi portarci seguo sempre. Portarci una macchina per lavorare il formaggio, cioè noi, o i ciccioli, una come filiera ha fatto per i salumi, una linea per i salumi, ho letto. Noi siamo qua nel padiglione 4 di 021. Ottimo, siamo esattamente all'ingresso, passati i tornelli, timbrato il biglietto, siamo esattamente qua, non vi possiamo sfuggire. E siamo soprattutto nel cuore della Food Valley, Parma in questi giorni è la capitale delle macchine, come dicevamo, per il food, per la lavorazione del cibo, la capitale delle novità tecnologiche per la conservazione e anche il trasporto degli alimenti, temi che interessano assolutamente da vicino i consumatori che esigono di portare sulla loro tavola prodotti di qualità. Gli italiani lo sappiamo bene che sono intransigenti su questo aspetto, però è anche vero che abbiamo sempre meno tempo per comprare e consumare cibi freschi, freschissimi, per cui da anni l'industria propone quanto ci sia di meglio e quanto di più sia all'avanguardia per la trasformazione ma anche per la conservazione, appunto, come vi dicevo, degli alimenti, temi che si legano in modo molto stretto a tutte le tendenze anche commerciali, naturalmente alle scelte d'acquisto e anche a quelle del tempo libero, le abitudini, insomma, come sempre il cuore e i denari si incontrano e si incontreranno anche nella puntata di oggi. Lo sai che ti farò conoscere, pensa, un economista agroalimentare. Avresti mai pensato qualche anno fa che ci potesse essere una figura professionale, no, come devo questa? Dire di no, e non vedo l'ora, meno ottimo, male che ho portato tardi la mia giacca. Allora, sai che l'altra volta tu hai detto, con questa giacca color zucca, mi hanno scritto molti amici e anche ascoltatori per incuriositi dal colore. Allora, oggi vogliamo la carta dire da zucchero, un po' come il mio vestito, perché tanto per cambiarci siamo vestiti con lo uguale stesso colore venendo da due città diverse, e poi posteremo le nostre foto con, certo, i nostri colori. Ma torniamo al tema di oggi. Sì, naturalmente vi invitiamo all'800 24 0024 a questa puntata giocata proprio sull'innovazione tecnologica, e noi non potevamo perdere l'occasione di parlare di tecnologia applicata alla nostra quotidianità, perché la tecnologia ci ha aiutato e ci aiuta a preservare il gusto, il sapore, il valore nutrizionale degli alimenti, e in più in cucina ci dà una mano perché ci fa risparmiare tempo. Lo declineremo in tante voci. Io sto pensando anche al frigorifero, anche questo è frutto della tecnologia. A Roma ci pensano tanto in questi giorni. Ecco, se non lo avete abbandonato vicino al cassonetto per fare dispetto alla Raggi, ecco, guardatelo, tenetelo da conto, guardatelo, sbirciate dentro al vostro frigorifero, perché oggi parleremo anche di questo elettrodomestico così importante, così utile, che a volte non riusciamo a sfruttare completamente, no, o magari lo usiamo in modo devo non corretto. Devo dirti che io faccio fatica a trovare la temperatura giusta. Vedi? Che mi conservi, come dico io, l'alimento, quindi e poi devo fare un a po' metterlo amicizia in ordine, quando sai quei bei frigoriferi che apri e vedi tutte le cose belle conservate. No, ma ci sono anche le regole della disposizione, tu me lo certo insegni a cuore, altro che. Ma parleremo anche di etichetta, parleremo di prodotti di terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava gamma. Quelle insalate che noi prendiamo, sappiamo, apriamo tutto in busta. Abbiamo studiato al meglio per venire a Cibus Tech. E poi i surgelati, che hanno rappresentato sicuramente una svolta. Ne parleremo con i nostri esperti. Intanto 800 24 00 24 vi aspettiamo. In un grande magazzino una volta al mese. Siamo nel cuore della settimana, qualcuno avrà già fatto una mini spesa, altri invece aspetteranno sabato per fare la spesona. Tu quando vai? Allora, io devo dirti che anche metà settimana fare un salto al supermercato piace, perché ti l'ho detto mille volte, mi rilassa. Io ho questa depravazione, non so per quale motivo, ma è il mio grande hobby. Spese o spesine o spesone, da tempo lo sappiamo, anche il recente rapporto del Censis lo conferma, la crisi economica ha influito anche pesantemente sullo stile di vita e sui consumi degli italiani, ma proprio per questo è importante gestire bene i denari che abbiamo a disposizione. Mi sto trasformando, mi sto roscianizzando. Ormai vedi? A nostra immagine e somiglianza. È una corretta spesa dipende da quello che mettiamo nel carrello. E anche qui guarderemo e ci faremo aiutare dalla tecnologia, cercheremo di capire come utilizzarla e sfruttarla al meglio, che cosa e come ci aiuta nella quotidianità. Vogliamo presentarvi subito il nostro primo ospite, il dottor Gerardo Sequino. Buongiorno. Che è qui in studio con noi, nutrizionista, biologo, esperto in sicurezza degli alimenti. Sì, vuoi che ti presenti anche l'ospite di Denari? Allora, buongiorno e grazie per averci raggiunto. Dal suo stand ha fatto un po' di strada Alessandro Turatti, responsabile della divisione americana del gruppo Turatti, della divisione americana, ma il gruppo è veneto, certo, dobbiamo ricordare, sì. Di Cavarsere. Sì, Cavarsere. Cavarsere, eccoci qua, subito. L'accento si sposta. È sempre capita spesso, sì. Questa è un'azienda specialista mondiale nella progettazione e realizzazione di macchinari e linee complete per l'industria alimentare. Te la sintetizzo, se compri l'insalata in busta al supermercato, ci pensano questi signori a ideare tutta la tecnologia per far sì che dal campo alla nostra tavola questa insalata arrivi perfetta, tagliata, pulita, igienizzata al massimo. Insomma, qua sembra molto banale questo lavoro, in realtà studiano delle cose eccezionali e soprattutto stanno facendo dei grandissimi investimenti in America, ma noi vogliamo sapere cosa fate per i consumatori italiani. Certo. Dottor Turatti, naturalmente. Certo, con grosso piacere, perché effettivamente mi piace molto questa occasione di parlare di quarta gamma, perché al supermercato, quando il consumatore acquista una busta di insalata, pensa, non che immagina in retrobottega che taglia, esatto, immaginano le carote, che le il prodotto venga tagliato appunto nelle retrobottega, e non immagina il livello di tecnologia che c'è dietro di questi tipi di prodotti. E l'Italia è all'avanguardia, questo mi piace dirlo, perché noi appunto vendiamo impianti in tutto il mondo, però devo confermare che per quanto riguarda le normative, per quanto riguarda anche la lavorazione dei prodotti, posso rassicurare i consumatori italiani che abbiamo dei prodotti veramente sani e lavorati con ottimi criteri. Certo, poi magari parleremo anche di un tema di cuore, magari se tu poi vuoi stuzzicare i tuoi ospiti su questo. Mi sono sempre chiesta, ma un'insalata per arrivare da un campo che è magari molto lontano dalla nostra città e arrivare così bella, pulita, pronta al consumo appunto sulla nostra tavola, quanto viene stressata e quindi perderà anche le sue caratteristiche nutrizionali? Lo chiediamo naturalmente ai nostri esperti. Lo chiediamo subito a Turatti intanto. Beh, questa è effettivamente una bella domanda, perché effettivamente, essendo il prodotto di quarta gamma, è un prodotto fresco e quindi deve preservare la propria integrità. E negli Stati Uniti, per raccontare l'esperienza che conosco più da vicino, però questo accade in molte esperienze anche italiane, i prodotti di quarta gamma vengono coltivati in prossimità dell'area di processo, quindi la filiera è corta. Filiera è molto corta. E poi un grosso vantaggio che abbiamo in Italia rispetto a altri paesi è che in Italia i produttori di quarta gamma, chi processa la quarta gamma, per la maggior parte delle volte sono anche i produttori, quindi hanno un controllo diretto sulla produzione, perché in altre realtà invece le due entità sono separate e pertanto questa filiera, non dico che si interrompe, perché anche nell'altro caso ci sono, certo, degli aspetti di controllo per quanto riguarda tutti i criteri dell'agronomia e per quanto riguarda la coltivazione, però c'è un controllo più diretto. Per quindi dal campo alla tavola. Esatto. E poi, esatto, sai, diciamo la verità, trovandoteli belli e pronti, e qua vado dal dottor Sequino, e quindi non devi stare a lavare foglia per foglia, che noi riusciamo anche a portare più frequentemente in tavola dei prodotti che per mancanza di tempo, di pigrizia, non avremmo portato. E quindi in fondo questi prodotti ci danno una mano anche a equilibrare la nostra dieta, dottor Sequino, che dice? Sì, possono essere dei prodotti utili, veloci, pratici da utilizzare. Abbiamo più scuse, perché quando andiamo dal medico e ci dice ma cerchi di mangiare un pochino meglio, un pochino più di verdura, si raccomandano le porzioni, le 5 porzioni di frutta e verdura, soprattutto più verdura che frutta, uno dice vabbè, ma arrivo a casa tardi, non ho tempo. Adesso c'è pure l'insalata nella busta, tutto preparato, è solo da mettere nel piatto e masticare. Sì. Quindi sicuramente un aiuto per la nostra dieta. Sì, sicuro, almeno così le possiamo mettere almeno le due volte al giorno, sia a pranzo che a cena, le verdure già pronte, lavate, pronte al consumo, basta solo condirle. Ecco, io volevo però con il dottor Sequino, dato che si parla anche qua a Cibus Tech di packaging, e quindi io non posso fare a meno di dare un occhio all'etichetta, perché per fare la spesa per bene abbiamo imparato che è bene leggere l'etichetta, è un po' la carta d'identità del prodotto che stiamo acquistando, e quindi è il modo migliore per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Adesso leggerle è anche più facile, perché come sapete da qualche anno che sono entrate in vigore le direttive dell'Unione Europea, che ha voluto etichette più leggibili. Certo. Finalmente le indicazioni obbligatorie sono scritte in caratteri più grandi, quindi non dobbiamo cercare gli occhiali che non si trovano mai nella borsa, in modo da renderle più visibili e anche più chiare. Dottor Sequino, quindi la prima indicazione che voi date è leggete l'etichetta. Sì, dove ci deve cadere l'occhio? Allora, innanzitutto l'etichetta, come ha già detto, rappresenta la carta di identità di un alimento, e quindi dobbiamo obbligatoriamente leggerla e non farci solo attrarre dal claims gridato sul fronte dell'alimento. Grazie all'etichetta possiamo capire se il claims poi corrisponde a verità o meno. Ci sono delle piccole regole che bisogna conoscere, molto semplici. Ad esempio, bisogna sapere che gli ingredienti sono inseriti in etichetta in ordine decrescente, da quello più concentrato a quello meno concentrato. Non bisogna farsi ingannare dal posizionamento basso di alcuni ingredienti come gli zuccheri o i grassi, che possono essere presenti con nomi diversi, ad esempio sottomentite spoglie, per dire. Ad esempio possiamo trovare in fondo glucosio, destrosio, fruttosio, sono tutti zuccheri che si sommano e che poi portano ad elevate quantità di zuccheri. Quindi dobbiamo sempre leggere, per difenderci, la tabella anche che c'è a fianco all'etichetta. E infine possiamo dire che un alimento, per farlo di buona qualità, di ottima qualità, bastano pochi ingredienti. Quindi quanti meno ingredienti ci sono all'interno, meglio è. Come con le insalate, ingredienti una, vero? Beh, dipende, sono effettivamente, sì, l'insalata può essere monoprodotto, ma ci sono molte miscele con misticanze. Misticanze varie, ma noi adesso preferita, posso dirlo. Andiamo, tu aggiungi, io aggiungo semini di girasole, figurati, semi di lino, guarda, un po' di noci, guarda, chi più ne ha più ne metta, e quindi insomma un sacco di lavoro per il gruppo Turati e non solo. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. A tra poco. Cuore e denari. Ma qua de le che ti staccati a frigidero, cosa aspetti quest'inverno su che vedeste? Ti metti in fresco un po' di birra per gli amici, quando vengono a trovate stanchi morti e sue, e non ti pensi a roba. Vabbè, insomma, anche Bruno Lauzi abbiamo scomodato questa mattina con il frigideiro. Un grande, siamo in diretta da Cibus Tech, il salone delle tecnologie per l'industria alimentare, in programma alla Fiera di Parma fino a venerdì, ma noi ci siamo solo oggi, quindi affrettatevi, se no mi lasciate persa. Comunque non vi preoccupate, perché Radio 24 perderà noi, perché quindi un po' meno, ma ci saranno anche gli altri. Arrivano esempio, domani Carlo Genta, gli Sportivoni, esatto, ieri c'è stato Simone, poi non mi ricordo chi altro arriva, però insomma saremo ben rappresentati a questa. Allora, intanto qui in studio con noi ci sono il dottor Gerardo Sequino, che è biologo, esperto in sicurezza degli alimenti e nutrizionista, con cui parleremo di etichette, ma non solo, di tutta la tecnologia, compresa quella del frigorifero. Esattamente, il grande protagonista della cronaca di questi giorni, soprattutto politica, non si capisce perché ci sia stata questa curiosa combinazione fra politica e frigoriferi. Poi c'è anche Alessandro Turatti del gruppo Turatti di Cavarsere, Venezia, è un gruppo appunto, come vi dicevo, leader mondiale nella progettazione e realizzazione di macchinari. Il dottor Turatti, Nicoletta, ti volevo raccontare, reduce dall'ennesimo viaggio a San Francisco, più che viaggio direi che lei adesso è in viaggio in Italia, perché è stabile appunto in California da molto tempo a questa parte, e proprio in quest'area questo gruppo italiano, tanto anche per raccontare che cosa fa l'industria italiana in giro per il mondo, noi qua la vogliamo demolire sempre in ogni modo, poi in giro per il mondo facciamo sempre queste figure straordinarie, perché esportiamo, perché tecnologia, perché siamo i migliori, esatto. Possiamo dirlo, ma certo, certo. Turatti è assolutamente d'accordo. C'è un investimento, l'ennesimo, che il gruppo sta facendo, da ben 5 milioni di dollari per la realizzazione di un grosso impianto di lavorazione e confezionamento di insalata e verdura in foglia come gli spinaci. Allora, la mia curiosità, dottor Turatti, è una curiosità di cuore e denari, perché questi americani da una parte sono ossessionati dalla forma fisica come i californiani, dall'altra parte c'è invece un gran consumo di cibo spazzatura e quindi l'obesità, la grande battaglia anche di Michelle Obama contro appunto questo abuso del cibo non assolutamente salutare. Invece la verdura confezionata in questa maniera, che tassi di consumo ha negli Stati Uniti? Una mia curiosità, data proprio le due facce della medaglia completamente opposte che ci sono legate al cibo in America, al consumo di cibo in America. Sì, è vero, negli Stati Uniti il consumo di insalate e di verdura in genere comunque sta aumentando molto, proprio come reazione a questa, vorrei dire, schizofrenia alimentare che va da una parte verso il junk food, il cibo spazzatura, e mentre la tendenza all'essere fitness, nell'avere prodotti molto più sani. E quello che si sta avverando in questo periodo è praticamente l'introduzione di nuovi prodotti a base di verdura, non solo le classiche buste di insalata che vediamo anche noi al supermercato qua in Italia, ma tutta una serie di nuovi prodotti per invogliare anche i cibi, i ragazzi, i bambini a consumare più cibi sani. Ad esempio, con un termine molto simpatico, si sta avverando quella che chiamano la snackification delle verdure. Per spiegarci meglio, praticamente invece di mangiare un dolce o un biscotto, adesso cominciano a uscire un 100 grammi di rucola californiana, la gambetta di carota, corretto, le baby carote, magari associate a un bel peanut butter o certo, qualcosa non molto sano. Perché però la carota poco appeal generalmente, non solamente la carota ma per i bambini il sedano certo, esatto, a meno che non gli ci porti dietro un bel pinsimonio. Sì. Poi stanno anche facendo dei grossi investimenti nelle scuole per poter avere delle salad bar, delle zone dove invece di consumare patate fritte, pollo fritto, tutte le cose veramente non sane, i vari scolari possono miscelare le loro insalate, e questo è uno sforzo proprio che viene anche portato avanti dalle varie amministrazioni locali e poi anche come era stato accennato poc'anzi dalla moglie del presidente, da Michelle Obama, quindi... e il suo simpatico orto a Washington, cercano di alleggerire anche di calorie, termine che non si usa più, però rende bene l'idea, la dieta degli americani. Ma anche noi dobbiamo un pochino stare attenti, perché sai, ti mangi l'insalata, dottor Sequino, però se poi la condisci generosamente con maionese, quelle che gli americani chiamano dressing, ti saluto in salata, dottor Sequino. Sì, è normale, chiaramente il condimento deve essere sempre leggero, e mai mettere delle creme come maionese o altre salse. Vabbè, mai, adesso mai, non esageriamo, qualche volta insomma. Comunque non abusiamo. Andiamo di semi, sai, perché abbiamo parlato di etichette, il dottor Sequino ci ha raccomandato la lettura dandoci anche qualche piccola scorciatoia per non perdere troppo tempo e andare subito alle indicazioni più importanti. Ma proprio sulle etichette c'è una proposta da un'organizzazione indipendente inglese che è proprio impegnata nel miglioramento della salute pubblica e del benessere, di riportare sulle etichette degli alimenti l'attività fisica necessaria per bruciare le calorie. Allora, in linea con noi abbiamo, naturalmente, quando parliamo di attività fisica e di calorie, e lui, che ti viene in mente? Lui, il nostro lui, uomo. Solo lui. Il grande Confa. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Grazie per questa introduzione. Sta sgranocchiando la carotina del mattino? Io sgranocchio la frutta secca del mattino, però va Bravo. Bene lo stesso. Allora, dottore, abbiamo 2 minuti prima del GR. Sì. Parte e ci racconti. Abbiamo parlato qualche settimana fa di cammino, un'attività che sicuramente lei promuove. Poi su quale altra attività in 2 minuti possiamo investire per spendere questa volta le nostre energie? Per allora, consumare, per bruciare. Sarò sì, vada. Super sintetico e molto concreto. Innanzitutto trovo ottima questa iniziativa perché dà al consumatore la consapevolezza che per dimagrire bisogna mangiare bene, oltre che fare sport, che si dimagrisce soprattutto riducendo l'apporto calorico. Quindi questa è fondamentale dal mio punto di vista, al di là del fatto che il concetto delle calorie è ormai superato, come avete giustamente sottolineato. Rispetto all'attività, molto concretamente, un'ora di cammino sono circa 200 calorie, circa. Un'ora che di ballo, equivalgono più o meno? Che equivalgono più o meno a una porzione molto scarsa di pasta o a una barretta energetica. Poi. Un'ora di ballo, che è un'attività che noi promuoviamo spesso perché unisce il ludico alla salute, sono circa 400 calorie, così come un'ora di ciclismo, che è un'attività a basso impatto, molto praticata. Quindi un piatto molto abbondante di pasta o una bistecca di quelle vere. Quindi muovendosi possiamo... apporto calorico, ma dottor Confalonieri, se mai ci sentiamo dopo, GR e poi di nuovo insieme. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Cuore e denari. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Fa solo macchinari, però niente. Sì, allora un po' di cibo c'è, perché ci sono anche ovviamente tutte le prelibatezze legate a questa terra che sono straordinarie. Però noi oggi ci atteniamo al rigido programma di Cuore e Denari, che è tutto concentrato sul consumo di frutta e verdura, possibilmente freschi, Nicoletta, ma se non si può, dobbiamo andare sul confezionato. Certo, possiamo farci aiutare da dei prodotti che sono pronti. Abbiamo fatto l'esempio dell'insalata e si è aperto un mondo. Guarda. Mi piace leggere il messaggio di Fabio, perché così a Fabio diciamo che le insalate le mangiano anche i maschi. Conferma anche lei? Ma certo. E non è sempre solo colpa delle donne imbranate che non sanno cucinare, che vogliono, esatto, tutto pronto. È vero, siamo anche così, però non sempre. Li mangiano anche i maschi e in qualche modo sono allettati ad avere questi prodotti a disposizione. Pensiamo ai single. Ma come no, ma poi anche per non parlare d'estate, la convenienza di avere un prodotto già pronto proprio è la caratteristica determinante di questa categoria però, di prodotti. Però naturalmente sì, no, gli ascoltatori dicono giustamente, ma insomma fate cuore e denari, l'aspetto denari dove sta? L'aspetto denari è legato al fatto che questi prodotti, si sa, per certi versi è un aspetto contestato, per altri ovvio, costano un po' di più, perché insomma tutto il servito riverito in qualche maniera deve essere remunerato, dottor Turatti, no? Certo, ma questa infatti è una delle tra virgolette accuse che viene fatta più spesso nei confronti di questo tipo di prodotto, il che poi trova il tempo che trova, perché alla fine si acquista tempo che viene guadagnato in cucina e poi forse non c'è scarto. Assolutamente, cioè, questo infatti l'altro mangi. È esattamente tutto prodotto edibile, quindi tutto quello che è contenuto nella busta viene consumato. Ecco, questo non vuol dire che non sia piacevole andare al mercato, andare dal fruttarolo, non stiamo facendo una guerra di una fazione prendersi piuttosto la lattuga eccetera, prenderle, le foglie esterne le possiamo mettere nei passati e non si butta via niente, proprio per lo spreco. Ma a proposito di insalata, alcuni ascoltatori scrivono: ma quando la apri, quando si apre c'è questo odore, non si firma l'ascoltatore, di chimico incontrovertibile. Il problemuccio dice che se non la consumi questa insalata qua veramente in tempi da Flash Gordon ti marcisce in un batter d'occhio. Che succede, dottor Turatti? No, effettivamente essendo un prodotto fresco deve essere consumato relativamente in breve tempo, perché poi è un prodotto che ha una durata di 7 giorni, viene lavato con delle tecnologie all'avanguardia per quanto riguarda appunto la sanificazione, però è chiaro che questo è un prodotto che proprio per la sua natura una volta aperto deve essere consumato, soprattutto nelle monoporzioni, nelle porzioni dottor più Sequino piccole. Nella nostra etichetta troviamo da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro il... non sono sinonimi, che cosa possiamo imparare oggi? Vabbè, chiaramente ricordiamo ai più distratti che bisogna sempre leggere la data di scadenza. La differenza tra le due frasi è che nel primo caso, ovvero consumarsi entro, il prodotto deve essere consumato per forza entro quella data, altrimenti dopo inizia ad aumentare la carica microbica. mentre da consumarsi preferibilmente entro. Siamo un po' più liberi. Sì, siamo un po' più liberi, possiamo andare anche oltre la data di scadenza, vuol dire che oltre quella data di scadenza il produttore non ci assicura più le caratteristiche organolettiche dell'alimento. Chiaramente magari ne sentirà un po' l'odore o il gusto. Abbiamo parlato di insalate in busta, ma ad aiutarci ci sono anche altri prodotti che sono assolutamente la frutta e la verdura, la frutta naturalmente. Ecco, questo è un alimento dal mondo vegetale, dottor Turatti, che fa più fatica per esempio ad essere lavorato. Che novità ci sono da questo punto di vista, oltre al classico delle pesche sciroppate che mi vengono in mente? Anche no? Le pere. Esatto, infatti. Sì, la frutta di quarta gamma è effettivamente una categoria in crescita, che però ha delle problematiche intrinseche proprio al tipo di prodotto, perché mentre una linea di lavorazione per il prodotto e per le verdure può essere completamente automatizzata, per la frutta invece è necessario avere tutta una serie di sistemi di pelatura piuttosto che di lavaggio peculiari. E il grosso problema che non ha portato a una grossa crescita della frutta di quarta gamma è anche dovuto al fatto che la materia prima deve essere selezionata tutto l'anno, certo. E ovviamente la stagionalità è una grossa componente. Dal punto di vista nutrizionale, vengo da lei, dottor Sequino, una frutta, un frutto sbucciato e affettato perde in vitamine, sali minerali, in tutte queste proprietà che noi sappiamo essere importanti, tanto che ci invitate anche per la spremuta a spremere e a berla subito, infatti, proprio per mantenere inalterate le proprietà, le qualità nutritive. Dottor Sequino, lei che ne pensa? Allora, praticamente la lavorazione degli alimenti comporta anche la perdita di nutrienti, anche se tale processo è un po' rallentato se riusciamo a consumarlo il prima possibile dall'acquisto. Quindi non dobbiamo, il consiglio che do è che una volta che compriamo questi alimenti già lavorati li dobbiamo consumare subito. Ecco, che li paghiamo anche già un po' di più per tutta la tecnologia, poi lasciarli marcire in frigorifero. Ma questa insalata ad esempio, io dove la metto nel mio frigorifero? In quale ripiano? In quale ripiano? Beh, cioè, generalmente nel ripiano quello di... Lei dove la tiene a casa sua? Ecco, sua moglie che cosa le suggerisce di fare? Perché almeno lì comanderà, lei decide su tutti gli impianti che la portano bella pulita e pronta appunto a tavola, ma poi tutto il resto in casa. Sì, mi piacerebbe dire altrimenti, però effettivamente è così, no? Nella zona dove vengono, non nel cassetto sotto dove vengono messe le verdure, ma nel ripiano subito sopra, quindi nella parte bassa del frigorifero. Scusami, posso leggere questo messaggio? Spero di essere nel posto giusto per la diretta. Saluto tutte voi conduttrici, il signor Turatti. Sono Dario di Belluno, ho ascoltato il dottore che vive in California, il mio sogno, mi occupo di automazione industriale. Spero che accetti curriculum di noi vecchiotti, cavarsene, famosa anche per le apparizioni della Santissima Madonna. Non chiamatemi che sono al lavoro, però lo salutiamo. Ma carino, e mandiamo subito il curriculum al gruppo Turatti. Va lei bene. Non ce l'aveva detto anche di questa della Madonna. Sì, è capitato nell'ultimo paio d'anni, sì, effettivamente. Hai capito, insomma, quante allora, cose. Allora, io volevo parlare anche un attimo rapidamente della catena del freddo e dei surgelati, perché anche loro, come i prodotti di quarta gamma, ci hanno salvato un po' no? In tante occasioni, soprattutto quando vogliamo qualche cosa di pronto subito o abbiamo bisogno di, per una ricetta, di utilizzare dei prodotti che non sono di stagione, oppure li vogliamo pronti tutti l'anno, dei piselli, i surgelati. Dottore, anche per i surgelati, attenzioni e precauzioni, il valore nutrizionale di un prodotto surgelato è uguale a quello di un prodotto fresco? Allora, un prodotto magari surgelato, un po' svenuto nel nostro frigorifero, che teniamo lì un po', domani lo pulisco. E lui sviene. Dottore, rapidamente. Allora, chiaramente il prodotto surgelato conserva bene le caratteristiche nutrizionali se viene surgelato subito, quando è tagliato, quando è acquistato. Ma noi arriviamo a casa, perché non abbiamo oggi la possibilità di ripercorrere tutto il processo produttivo. Vado al supermercato, compro il surgelato. Che cosa ne faccio? Come lo conservo? Allora, come posso sfruttarlo al meglio? Anche qui è fondamentale leggere la data di scadenza e tutta l'etichetta. Un mio consiglio poi è quello di acquistare sempre prodotti che contengano un singolo ingrediente e non che ci sia un miscuglio di ad esempio verdure, legumi, patate eccetera. Quindi lei dice spinaci, piselli, sì, fate la vostra scelta. Non ci devono essere né additivi, grassi o sale. E poi capire, è molto importante capire anche se il surgelato ha mantenuto la catena del freddo. Come posso farlo? Toccando la busta, se all'interno troviamo che l'alimento surgelato sia un unico agglomerato, vuol dire che ha perso la catena del freddo. Quindi lo lasciamo lì o anzi dovremmo segnalarlo all'addetto? Magari, sì, esatto. In teoria sì, però possiamo anche lasciarlo là. Lei mi ha detto fuori onda, ci ha detto anche un trucchetto per capire sull'insalata non in ce busta. Lo voleva dire in onda? Non lo so, perché magari così lo confrontiamo, vediamo se ci dà un consiglio giusto. Come faccio a capire che l'insalata che sto comprando in busta è fresca? Allora, anche in questo caso la busta non deve essere rigonfia, perché sennò altrimenti vuol dire che c'è stato è partita la carica microbica, è aumentata la carica microbica, c'è stato del lavoro da parte dei microorganismi. A me è capitato con uno stracchino di recente. Dai, uno stracchino che sembrava con un vestitino bello tirato. Esatto, questa bustina che si gonfiava in frigorifero, ho detto forse è il caso di salutarlo. Un alien nel frigorifero. Tra noi è tutto finito, ecco, sì. Qua. Dottor Turatti, invece lei sulle buste che si rigonfiano deve dirci qualcosa? Conferma, poi talvolta anche dipende dalla conservazione. La filiera in genere è molto corretta per quanto riguarda il mantenimento del freddo, però possono capitare delle fasi, certo, in cui questo non avviene. Io tra l'altro volevo aggiungere proprio un brevissimo commento per quanto riguarda i surgelati. Per quanto riguarda i surgelati, talvolta la filiera è ancora più corta nel surgelato che per quanto riguarda il fresco, quindi alcuni dei prodotti sono surgelati sono addirittura migliori del fresco. Vorrei dire di sì, dalla perché, esperienza personale. Le proprietà nutritive organolettiche vengono bloccate subito. Nella prossima vita nasco surgelato. Esatto. Giulio da Genova, buongiorno. Benvenuta a Cibus Tech. Giulio. Niente, è stato in attesa, voleva chiederci la differenza, forse era meglio che argomentasse lui la domanda, fra fresco e imbustato. Volevo togliermi una curiosità col dottor Turatti, ma qual è quel vegetale particolarmente difficile da trattare, quello sul quale anche la vostra industria ancora non ha manifestato tutte le proprie capacità di trasferimento appunto dal campo alla tavola? Praticamente si è partiti dalle insalatine, le baby leaf, quelle appunto conservate, coltivate in serra, che sono molto molto delicate perché hanno una crescita più lenta rispetto a quelle pieno campo, e quindi sono delle insalatine che si deteriorano molto velocemente e per questo motivo necessitano di una fase di lavorazione molto delicata, tanto che questo tipo di prodotti vengono lavati con delle tecnologie speciali e addirittura vengono asciugati con dei sistemi che abbiamo brevettato con dei soffi d'aria mutuati dalla tecnologia, certo, dei tunnel di surgelazione. E è vero che ora che si sta passando a un maggior consumo di verdure in quarta gamma, quindi broccoli, cavolfiori, piuttosto di altri tipi di superfoods, questi comportano tutta una serie sviluppi tecnologici che già sono in atto e che sono già stati sviluppati. Quindi, per rispondere brevemente alla sua risposta, nulla è impossibile, basta applicare le giuste tecnologie per poter ottenere un prodotto che abbia una durata poi di 7-8 giorni. Ma ad esempio le puntarelle ce la farete? Invece se no mi tocca sempre pulirle. Cioè, guarda, c'è il prossimo ormai ospite che se la smazza la risate, se la ride, però tra un po' la salutiamo. Comunque ormai ho comprato l'attrezzino, le butto nell'acqua ghiacciata. No, lo dico a Fabio. A Fabio, che teme che tu non l'ho insegnato anche alle mie figlie, stia tranquillo. No, ma tra l'altro ci sta massacrando, ne sta scrivendo di ogni. Va quindi bene, o è lo chiameremo ai lavori, anche noi, esatto, per disturbarlo un po'. Grazie al dottor Sequino per essere stato stato con noi, le auguriamo una buonissima giornata. Buona giornata anche a voi. Facciamo ancora alla magari prossima. Sì, esatto, un paio di domande al dottor Turati, poi salutiamo anche lui, ci avviciniamo per la seconda mezz'ora con gli altri ospiti. Tu chi hai tra l'altro da portarci? Allora, un grande ospite, un altro biologo esperto in sicurezza degli alimenti e in tutela della salute è il dottor Luciano Azzori, il professor Luciano Azzori, perché abbiamo ripensato un po' le regole della conservazione, ma a volte mandiamo tutto in fumo perché facciamo qualche pasticcetto a casa. Certo. Lì Fabio ha ragione, ne facciamo, io riesco a farne parecchi e ho il sospetto che mi conosca Fabio. Ma può darsi che sia un amico di Carlo, non lo sappiamo. E non sappiamo, e allora cerchiamo di evitare proprio gli errori più banali che potrebbero mettere in qualche modo in pericolo la salute e l'integrità dei nostri alimenti, e quindi ci faremo dare qualche dritta. Noi invece abbiamo qui con noi, finalmente ci ha raggiunto anche una donna, Daniela Torresetti, economista agroalimentare, benvenuta. Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Anche lei ama le puntarelle? Tantissimo. Ecco, infatti, era rimasta molto colpita dalla osservazione che Nicoletta ha fatto con Turati. Tra l'altro eravamo colpite dal fatto che ci fosse oggi, e credo che sia anche di formazione, come dire, recente, la professione dell'economista agroalimentare. Direi che con tutto lo sviluppo del food, della anche cultura del food. Sì, anche un po' complessa. E nello specifico non è semplicemente una laurea in agronomo, quella che ho io, ingegnere agrario in Spagna, ma ho anche una specializzazione in economia agroalimentare. Però in realtà basterebbe anche 5 anni di percorso. Però insomma vi siete divertiti negli ultimi anni, perché abbiamo visto di tutto. Peraltro leggevamo questa mattina uno speciale pubblicato con un grande quotidiano della nascita Punta Bologna di Italy World. Ormai ci siamo con il taglio del nastro, speriamo, di questo grandissimo parco dedicato al food. La presentazione avverrà negli Stati Uniti, perché prima di tutto lo comunicano al mercato americano, Turati. Dopodiché, ecco, Turati docet. Esatto, infatti. L'ultima considerazione con Turati che voglio farlo prima di, che voglio fare prima di salutarlo e prima di dare anche la parola a me stessa per i mercati finanziari. Noi, lei vive ormai quasi prevalentemente negli Stati Uniti, ma credo che il mercato americano lo osservi. Sono dei grandi amici di cuore e denari tutti vegetariani e vegani. È una come dire, popolazione che sta sempre di più crescendo, nuove abitudini alimentari che si adottano sia per questioni di benessere fisico, naturalmente, molto spesso anche per questioni etiche. La vostra industria immagino che sia molto aiutata anche da questi nuovi scenari di mercato di riferimento. Certo, che certo. Abbiamo mia stessa moglie è vegetariana, io non ho la forza per rinunciare completamente alla carne, però mi iscrivo alla categoria che è chiamata flexitarian, quindi mangio avevamo anche noi fatto una puntata proprio sui flexitariani, sì, quelli che insomma la mangiano un po' meno. Ho ridotto considerevolmente il consumo, però effettivamente, per ritornare alla domanda, è un mercato che sta crescendo proprio anche grazie al consumo di prodotti vegetariani. Ricordiamo che l'Italia è il secondo paese in Europa dopo la Germania per il numero di vegetariani, quindi anche noi abbiamo sviluppato tutta una serie di tecnologie, ad esempio per creare gli spaghetti vegetariani, tra l'altro l'abbiamo esposta anche qui in fiera, quindi tutta una serie di categorie di mercato che stanno nascendo e che appunto portano al mercato della quarta gamma oltre la busta di insalata. Quindi il poter offrire a chi ha problemi di celiachia o chi appunto è vegetariano una serie di prodotti come gli spaghetti vegetariani, gli hamburger vegetariani, tutta una serie di categorie di mercato che si stanno allargando e che permettono anche di offrire una maniera più simpatica anche ai bambini e ai ragazzi per consumare. Esatto, altro bel capitolo che avremmo potuto aprire oggi, ma insomma il tempo è sempre troppo tiranno per noi, che meriteremmo un intero palinsesto per affrontare tutti gli argomenti che ci piacciono. Confermo. Infatti. Noi comunque veniamo anche in America. Esatto, allora quando produciamo questo invito per Salinas vi aspettiamo. Lei quando ritorna là intanto, che cosa sta facendo? Alla fine adesso? Della prossima settimana appunto abbiamo aperto lo stabilimento e il mercato sta veramente esplodendo. Benissimo, quindi California è sempre caldo, si sta benissimo, Nicoletta, quindi direi che possiamo andare tranquilli. Vi aspettiamo. Ottimo, allora noi direi che adesso possiamo andare in pausa. Grazie ad Alessandro Turatti per essere stato con noi. Prima grazie di fare appunto questo grazie. Cambio di ospiti, direi che ci prendiamo un minutino di pausa, vi racconto cosa succede oggi sui mercati finanziari e poi riprendiamo la nostra diretta da Cibus Tech da Parma. Tra poco. Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Di pomodoro in busta? Ma no, so. Quella non pronta? Ce la possiamo fare. Non siamo pronte ancora a questa rivoluzione culturale. No, no, ci arriveremo magari, chissà, anche un po' liofilizzata, non si sa mai. Comunque, in ogni caso, oggi parliamo di tecnologia. Ci ha dato una mano, in tante, anche a noi, donne e uomini, sì, e questo guarda. Lo dico sempre ciao, per Fabio. Il mio amico Fabio, alle prese con la cucina, ha preservato le proprietà nutritive degli alimenti e ci ha permesso anche di accorciare i tempi. A volte però tutto questo che noi profumatamente paghiamo, mandiamo tutto in fumo con degli errori molto banali. In linea con noi abbiamo, come anticipato, il professor Luciano Azzori, biologo esperto in sicurezza degli alimenti e in tutela della salute. Professore, bentornato, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, prima regola, laviamoci le mani, sempre, tutte le volte che cuciniamo, maneggiamo cibo, anche se è un cibo che su cui si è concentrata tutta la tecnologia, quando è lì nudo, nudarello nella nostra cucina, laviamoci le mani. Va bene come prima regola? Sicuramente la tecnologia è di ausilio, ma se viene a essere carente l'igiene della persona o l'igiene durante la filiera produttiva a livello domestico, la tecnologia serve a ben poco. Va in fumo. Allora, professore, individuiamo quali sono gli errori più banali e magari le disattenzioni di cui non prendiamo consapevolezza perché magari le facciamo ripetutamente. Ci guidi lei. Attenzione allora, Allora, attenzione prima di tutto a evitare la crescita, quindi la moltiplicazione, aumentare il numero dei microrganismi già presenti negli alimenti. Questo perché moltissimi alimenti, moltissime materie prime, mi riferisco specialmente alla carne, al pesce, alle uova, alle verdure, quindi alimenti crudi, hanno già di per sé una carica batterica e viene chiamata contaminazione primaria. Ecco, noi spesso sottovalutiamo, non conosciamo questo aspetto e manipolando oppure con lo stesso tagliere facciamo prima la carne cruda o prima la verdura, poi ci tagliamo qualcosa di cotto che quindi è stato già bonificato, noi determiniamo una proliferazione, un aumento della contaminazione e del numero di microrganismi che passano da un alimento all'altro, da una attrezzatura, da un utensile all'altro. Questo quindi il consiglio di Cuore Denari può essere di avere due taglieri differenti, uno per le verdure, uno per magari carne e pesce, poi lavarli adeguatamente, ecco, magari non mescolare e non lavorare sullo stesso piano, nello stesso ingrediente, cibi cotti e cibi crudi. Perfetto. Adesso la prossima la commenta Deborah, che è quello più difficile. Vada la seconda regola perché poi la noi traduciamo in cucina. Aspetta che mi concentro. Poi, attenzione, la faccia difficile perché poi coinvolgiamo anche la nostra ospite. Vada. No. Allora, la seconda regola è una conseguenza della prima. Lavorare sempre in maniera abbastanza, come noi in casa nostra abbiamo a temperatura ambiente, cosiddetti 20-24 gradi, che è la temperatura ideale non solo per noi ma anche per i batteri. Abbiamo delle cose in comune noi e i batteri. E quindi evitare che i tempi siano lunghi di lavorazione per i nostri prodotti alimentari. Ad esempio, io ho preparato un ragù semilavorato, invece di lasciarlo due ore lì a temperatura ambiente, nel frattempo mi metto a fare altro, o gioco bene con i tempi o lo metto in frigorifero a più 4 gradi, quindi evito la moltiplicazione. Mai dare il tempo ai batteri di crescere, perché certo, un batterio in un minuto diventano 2, altri 2 minuti diventano 4, nel giro di un'ora sono già migliaia, 2 ore sono milioni. Fanno una festa, fanno un flash mob. La piena dei microrganismi. Io stavo pensando alla preparazione della torta di mele, con la mela che diventa nera in 3 secondi, ma non per l'azione, immagino, dei batteri, solo perché si oppone di per sé, esatto, però anche quello potrebbe essere... È inutile quella metterla in frigorifero, perché tanto l'ossidazione la fa diventare nera ugualmente. Quindi okay, l'indicazione il ragù appena cotto lo mettiamo via, e così anche il piatto che abbiamo preparato. La ricetta non la lasciamo raffreddare nel tegame. Perfetto. Okay. La terza regola? L'uso corretto dei detersivi, dei detergenti che utilizziamo in cucina. Noi abbiamo in Italia la buona abitudine di lavare tutte le donne, tutte le persone che cucinano molto bene, poi i piani di lavoro, gli utensili, le attrezzature, che è giustissimo. Però abbiamo la pessima abitudine di usare un eccesso di detersivi e di fare dei risciacqui, tra virgolette, superficiali. Cioè, molti qui non c'è più la schiuma, va bene, non c'è più. Invece in realtà una sottile pellicola rimane. E questa dà origine a una contaminazione non più microbiologica, ma chimica, che poi arriva nel nostro intestino, nel nostro certo organismo. E mai usare la varichina per lavare tutto ciò che viene a contatto con gli alimenti, bicchieri, posate, piatti, perché è un ottimo, addirittura non solo detergente ma anche disinfettante, però lascia dei residui fortissimi che possono essere molto pericolosi per la salute umana. Ma quando lei dice risciacquiamoli bene, lei come li risciacqua? No, io comincio a usare già meno detersivo, parto già da quel presupposto. Io lo uso diluito. Ah, già questo è positivo. Io vedo persone che mi spruzzano nella spugnetta. Secondo me Fabio si innamora dopo questa. E io non voglio sapere niente, non sarò complice. Quindi o diluito o meno, e poi risciacquateli bene. Quando vi sembrano risciacquati, risciacquateli un'altra volta. Sì, professore, che dici? Sì, va benissimo così. Dai, così ce la portiamo a casa. Evitare è un'abitudine che c'è molto nell'attività ristorativa, però vedo che c'è anche molte persone, molte... ma sai, lo fanno anche in casa, l'uso dell'aceto, dopo che si lavano tutti i bicchieri, tutta la portateria, tutti i piatti, con un panno, un canavaccio, ci mettono un po' imbevuto con l'aceto lo stoffino. Questo serve solo a rendere, l'aceto è un ottimo sgrassante, non è un disinfettante, a rendere più lucido, più bello da vedere, più affettibile, tra virgolette, il piatto, l'utensile, toglie le macchie, diciamo, dell'acqua e come si asciuga. In realtà però usando sempre lo stesso straccio stiamo poi portando microrganismi da un piatto all'altro. Infatti io ho fatto dei test, dopo 20 piatti l'ultimo piatto è straricco di microrganismi, quindi è una pratica da evitare soprattutto, anche perché non possiamo usare uno straccio per un piatto, perché sennò la lavatrice lievita. E poi il detersivo poi finisce tutto dall'altra parte. È tutto un gatto che si morde la coda. Esatto, è nato prima l'uovo e la gallina. Professore, grazie, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Allora, io, te, Daniela Torresetti, ormai ci siamo trasformate nelle tre massaie perfette. Dopo tutte queste indicazioni di Luciana Zori non possiamo sfuggire a tutte queste nuove abitudini che tutti dovremo introdurre nelle nostre abitazioni. Mi ha colpito molto la storia del ragù, da trasferire abbastanza rapidamente. Appunto, lo straccio dell'aceto mi ha... Allora, abbiamo già presentato la nostra economista agroalimentare che ci racconterà un po' cosa sta succedendo nel nostro paese, che è diventato ormai il paese degli show cooking, dei reality show, di Masterchef e quant'altro, però l'economista agroalimentare non fa le recensioni a questi programmi, insomma si occupa di ben altro, di macro trend evidenti anche nel nostro paese, e sono sicuramente tutti molto interessanti. Siamo tutti diventati un po' ossessionati dal cibo, dalla cultura del cibo, in Italia è anche un bene che lo sia, perché dato quello che riesce a esprimere il nostro paese, ma insomma se ci dovesse raccontare un po' le nuove tendenze italiane in termini di cultura del cibo, mi rendo conto che è un tema talmente vasto che poterlo sintetizzare in pochi minuti radiofonici è assolutamente poco, però insomma quali curiosità nuove ci può portare a beneficio dei nostri ascoltatori? A beneficio anche di quello che ha appena detto il professore, sicuramente si sta vagliando, si sta comunque offrendo al consumatore delle monoporzioni che sono pronte all'uso e non vanno messe in un piatto, quindi non ci sarà il problema del lavare o di praticamente asciugare il piatto perché sarà in plastica. Oggi siamo qui per parlare anche di packaging e di innovazione nel packaging stesso. Infatti dopo parteciperò ad un convegno dei sistemi formativi di Confindustria di Verveglia, che è proprio incentrato su packaging però ecosostenibili e biodegradabili, quindi non avremo neanche più il problema di doverci preoccupare di smaltire la plastica in sé. Anche perché quello per esempio è un altro grande tema che si sviluppa quando affrontiamo la nostra, il nostro viaggio quotidiano al supermercato. Non ci chiediamo perché molti al discount riescano a proporre ai consumatori prodotti che costano molto meno, proprio perché non fanno un grande investimento anche non solo nella distribuzione sugli scaffali ma anche nel packaging, nel confezionamento di questi prodotti. È un grandissimo tema questo. Sì, infatti il Cibustec sì, secondo me è un, più che altro è la rappresentazione della volontà dell'industria alimentare italiana nell'investire, perché comunque è un costo la ricerca e lo sviluppo, sono costi la certificazione, ma lo si fa in virtù proprio di una salvaguardia del consumatore, dell'ambiente, della popolazione stessa. Quindi si sta aumentando questa consapevolezza comunicandola al consumatore stesso. L'altra tendenza che c'è, oltre a queste porzioni monodose, table for one lo potrei definire, è la e-revolution. Non più nel negozio, ma andiamo a comprare online. Con un click, se non addirittura in giornata, ci arriva il piatto, l'alimento che abbiamo ordinato. Non a caso Amazon sta esplorando questo nuovo settore. Infatti. Quindi non è solo banalmente fare la spesa online, fare lo spesone. Sì, esatto. Nicoletta stava proprio osservando alcune inchieste che ci sono oggi sui quotidiani, sul cibo a domicilio. Cos'è che dice Repubblica? Il caso analizzato oggi. Dopo il taxi, a casa arriva la cena, anche Uber nel piatto online. Per non parlare poi di tutte le declinazioni di questo argomento legate al caso Foodora, alla consegna appunto in casa della pizza la sera tardi, eccetera. Ma quello è un altro tema legato alle modalità con cui sono contrattualizzati appunto questi ragazzi. Il concetto comunque del table for one, che può essere apparire anche molto sofisticato e anche un pochino triste, dottoressa Torresetti. Per me va bene, perché sono una di quelle che la sera mangia da sola, quindi va benissimo. Ah, eccoci qua. E quindi insomma questo poi ci diceva le revolution, la consegna a domicilio appunto delle... La spesa. Già, già se non voglio citare le grandi catene, già è possibile nel punto vendita o la persona stessa scegliere i prodotti che poi saranno consegnati in casa o addirittura farlo con un click. E questo ovviamente in tempi molto rapidi, in giornata. La stessa cosa però lo stanno facendo i grandi portali o i negozi, si stanno trasformando loro stessi in e-store, quindi possiamo comprare specialità italiane in tutta l'Italia e addirittura nel mondo. Noi adesso abbiamo il traffico, io ne approfitto per salutare a Torino il nostro amico Francesco Ardito, che invece si è inventato Last Minute sotto casa, questa grande applicazione appunto che permette di farci acquistare noi consumatori magari prodotti scontatissimi che sono in scadenza nei negozietti appunto attorno alla nostra casa, un modello di grande successo a Torino che si sta provando a portare anche in altre grandi città italiane. Forse stiamo partendo anche a Milano, Francesco ogni tanto me lo racconta, ma ancora non siamo pronti. Ma Parma chissà se accetteranno tutti questi negozi. L'idea è sicuramente bella, assolutamente avvincente, interessante soprattutto per il portafoglio. Abbiamo il traffico, torniamo tra pochissimo. Cuore e denari. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Allora, Nicoletta e Daniela Torresetti stanno chiacchierando di che cosa? Mi avete escluso la vostra conversazione. No, perché avevi perché leggevi i messaggi. Leggevo i messaggi, risalutiamo Fabio che è un esperto di food packaging, per cui anche tutte le contestazioni che ci sta muovendo, lui dice che le fa ovviamente da un osservatorio di tutto rispetto e autorevolezza, e continua a dirci che le donne sono imbranate, pigre e mangiano solo schifezze, perché naturalmente ha sofferto da piccolo. Fabio, pazienza. Grazie comunque. Grazie. Con l'affetto con cui ci scrive. E invece con Daniela Torresetti stiamo continuando ad esplorare un po' le nuove tendenze dell'agroalimentare italiano, il grande protagonista di questo salone di Cibustec a Parma, soprattutto dove si parla invece della tecnologia legata alla modalità di raccolta, trasformazione, conservazione degli alimenti, un settore che esprime veramente il meglio dell'eccellenza italiana. Gli ultimi minuti di tempo, magari cerchiamo anche dai nostri ascoltatori qualche così spunto, raccontateci che tipo di consumatori alimentari siete: salutisti, buongustai, alternativi, tradizionalisti, social, perché siamo diventati anche quello, Daniela Torresetti. Sì. Allora, a parte l'ossessione che abbiamo del pubblicare immediatamente sui nostri profili non appena si partecipa ad una cena dove la pietanza proposta è particolarmente interessante, buona, gustosa, vogliamo condividere questa nostra esperienza con tutto il mondo, ma il mondo social come osserva le tendenze dell'agroalimentare oppure il percorso è al contrario? Il percorso al contrario sta recependo questa nuova richiesta da parte delle aziende agroalimentari, proponendo dei prodotti che sono anche belli da vedere una volta che è aperta la confezione, quindi c'è soltanto da scartare e da portare sul tavolo. La tendenza l'ho chiamata tweet da mangiare, nel senso che prima si apprezza la bontà attraverso l'accostamento dei colori, la forma, la geometria. Perché e poi anche l'occhio assaggio. Vuole la sua parte, sì. Vedi, torniamo sempre lì. Non è un caso i drink, gli smoothie e queste nuove forme alimentari che si stanno proponendo anche nei bar. Insomma, hai capito che... Sì, a Roma c'è un ristorante che propone tutto nei barattoli con una presentazione particolare nella gradazione dei colori. L'altra tendenza importante da tenere presente in questo momento è che c'è la maggiore consapevolezza del we are what we eat. In realtà è il cardine dell'alimentazione mediterranea, cioè noi abbiamo sempre curato l'attenzione al cibo sano in sé, ma in questo momento anche tramite l'invasione di alimenti non proprio salutari come il junk food, detto anche il cibo spazzatura, c'è una riscoperta soprattutto nella fascia giovane dei bambini. Ci sono programmi del Ministero dell'Agricoltura che finanziano la promozione del consumo di frutta e di latte nelle scuole. Ma la storia della schiscetta a scuola, lei come la vede? L'ha avuto modo di analizzarla dal suo punto di vista? Se la ride? No, perché questo probabilmente potrebbe essere un tema di un suo prossimo approfondimento anche accademico, perché no? Credo che sia il grosso tema su cui si continuerà a sviluppare il dibattito prossimamente. Cosa facciamo mangiare i nostri bambini a scuola quando non vogliono consumare a mensa? Sì. Quando per tutta una serie di ragioni personali, familiari, di capriccio, di tutt'altro tema, insomma, non si vuole condividere il pasto in mensa con degli altri bambini, e però la famiglia appunto pretende, e qualche volta lo fa anche giustamente, di poter permettere al bambino di consumare come crede. Posso dire una cosa? In realtà chi fa i capricci in casa non sono solo i bambini, ma sono anche gli animali da compagnia. Per cui far presente che ci si sta muovendo anche per venire incontro al gatto, al cane della situazione, che hanno un'alimentazione anche loro curata nel dettaglio, tanto che si parla di dieta paleolitica, nel senso che si ritorna ad un'alimentazione dell'animale domestico dei suoi progenitori. E quindi c'è tutto un mercato che si sta sviluppando e che può essere curioso da seguire nei supermercati specializzati. Insomma, qua veramente ne apprendiamo una al minuto, una dietro l'altra. Potremmo andare avanti noi per un altro almeno ventennio con cuore e denari solamente per seguire tutti questi microfiloni che si sviluppano. Qualche altra curiosità, dottoressa Torresetti, legata alla tecnologia? Sì, le due tendenze fondamentali sono... L'abbiamo parlato molto di etichette alimentari prima. Sì, sì, sono la digitalizzazione e il sano. Di conseguenza si può riassumere quello che è stato detto finora nelle etichette intelligenti che danno l'opportunità sia all'azienda di seguire e tracciare il prodotto come temperature, come stoccaggio, ma anche al consumatore di capire se il prodotto che è arrivato è integro e soprattutto da dove proviene. È interessante un'applicazione che si chiama L'AR, che è l'applicazione di una realtà virtuale nel marketing, io lo proporrei per i prodotti agroalimentari, dove non serve come nel QR code un codice, ma si può fotografare una sezione del prodotto, dell'etichetta, e ci rimanda dei contenuti che il produttore ha deciso di rendere fruibile al consumatore. Video ricette, per me sono fondamentali, mi aiutano ad arricchire un piatto. Veramente Deborah la video ricetta ce l'ha tutti i giorni. Io ce l'ho la vedo. Perché, vedi, che io te l'ho anche... Tu me le servi ogni giorno, e devo dire che io sono una fruitrice che non tengo tanto in considerazione le ricette di Nicoletta, che le acquisisco faccio, tutte, però ancora non le riesco a riprodurre. Gliele trasformo rapida per... Devo dire che, vero? Te ne do tante. Me ne dai tante. Ma anche lei mi dà qualche soddisfazione. Non tantissime, ma ogni sta tanto cominciando. Intanto te ne darò l'ultima. Oggi lo sai che cos'è la smart kitchen, la cucina smart? No. Vediamo. No, la tua bella ricca e ancora sicuramente molto tradizionale. Di innovativo in cucina che cosa c'è, dottoressa Torresetti? C'è la possibilità... Un minuto di tempo prima di salutarci. Sì, c'è la possibilità di collegare gli elettrodomestici ad internet e quindi ci consente uno scambio di informazione tra noi come consumatori, la cucina e il mondo esterno, quindi passano ricette automaticamente in base al gusto della persona. I prodotti avvicinati ad un elettrodomestico sono in grado di riferire come va cotto e noi con i nostri, con la nostra wearable technology possiamo comunicare in base alle calorie consumate, allo stato di salute, qual è la migliore cottura del prodotto piuttosto cosa mangiare. Sì, ti dico che già qua Fabio ha spento la radio perché non vuole neanche sentir parlare di tutto questo. Noi lo sentiamo lo stesso, insomma, se qualche cosina di nuovo ci può aiutare sempre ad avere una vita un po' più queste semplice. Queste donne imbranate sono sempre. A noi piacciono le mani in pasta, che ne dica Fabio, a noi continua ancora molto a piacere il tradizionale, d'altronde qui a Parma non possiamo dire niente di diverso, pur avendo il regno della tecnologia alimentare protagonista di questo salone. Daniela Torresetti, economista agroalimentare, grazie molto e complimenti per il suo lavoro. Noi torniamo a Milano, cosa ne dici? Sì, adesso facciamo un giretto. Facciamo un giro, io faccio da qua la borsa delle 12.30, lo dico al nostro dottor Ferronato in regia. Grazie anche a Marco Lombardo per essere venuto con noi, ad Elena Ligios, a Davide Ciocia, a Laura Vanossi in regia a Milano. E a chi ci è venuto tutti a trovare. Bene, andiamo, torniamo grazie, l'anno prossimo domani a Parma. Buona giornata a tutti.